Domani sera, sabato 18 novembre, Gigi D'Agostino suona alla discoteca Roncaccio, Bizzarrone, Como. Mi piace suonare un tormento contento e che il movimento sia lento violento. Ignazio dalla provincia di Agrigento. Vorrei dedicare la canzone Ginnastica mentale alla mia Emanuela. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. Sono Stachi da Leonforte. Vorrei mandare un grossissimo bacio alle mie due tamarre Maria Carmela e Sonia. Ma un bacio ancora più grande a te, zio Gigi. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Grazie.

Caro Gigi, sono Rosario da Pinerolo. Fammi ascoltare Why Not. La dedico a tutti i miei amici. La la la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la la sing a song, pourquoi pas questa canzone. La la la sing a song. La la sing song, pourquoi pas questa chanson. La la sing song, pourquoi pas questa chanson. La la sing song, pourquoi pas questa canzone. La la sing song, pourquoi pas canzone. Vanessa di Villalba, in Sicilia. Volevo salutare mia madre Maria e mia sorella Luana. La la la sing a song. La la la sing a song. La la la sing a song. Pourquoi pas questa chanson. La la la sing a song. Tom, tom, tom, tom, tom. La la la sing a song. La la la sing a song. Di perplessità. Mando la pubblicità. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. Sono Daniele da Brescia. Vorrei ascoltare la canzone che dice perché di te ho bisogno. Solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Credo in quel che ho provato ed è quello che vedo solo in te. Sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se non credi in questa storia, domandati perché. Ricerca nella memoria quello che fu. attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Gigi D'Agostino, musica che unisce. La mia più grande amica Betty di Cadempino in Svizzera. Un bacio dal tuo piccolo Stefano. Durante la trasmissione di Santoro, anno zero, giocava con una coppola. Ma vai a lavorare e vergognati. Sulla mano. È come se tutto fosse strano, aria. Sulla mano, è come se tutto fosse strano, aria. Sulla mano, per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulla mano, per Gigi D'Agostino, sì. Aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani. Il momento parte lento violento e vi se riparte maestro col teatro. Er Burattino, Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino?

suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Late again today, he'd be in trouble, though he'd say he was sorry. He'd have to hurry out to the bus Tuesday. Horace was so sad, he'd never had a girl like he could care for. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh. Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Horace, please, this is your life. Go out and find yourself a wife. Girl, she was small and she was very pretty. He thought he was in love, he was afraid. Uh-oh. Asked her for a date, the cafe down the street tomorrow evening. His head was reeling when she said yes. Don't be afraid, just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Harry Swift, this is your life. Go out and find yourself a wife. Finendo la canzone, ho già qui la riflessione. Quell'attività che si ritiene immune dalla pubblicità, prima o poi si ritrova immune da ogni attività. Taradattata, si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Presto il sole sorgerà. La radio a colori. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna, non essere triste, presto il sole sorgerà. Questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Ti sento, siamo una sola anima e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se ti decide, ha deciso che ora la guerra è la necessità. Io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà. Che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. E chi decide, ha deciso che ora la guerra è la necessità. Io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà. Tutto cambierà. Vedrai che cambierà, cambierà, tutto cambierà, cambierà, oh, oh, oh, oh. Vedrai che cambierà. M2O, musica allo stato puro. Why am I leading a lonely life? Can you feel the way I'm so tired?